sulle mani, un po' più su. Guardando il sole, un girasole, non ci sono parole, questa musica strada per tornare indietro. Non voglio tornare. Voglio restare. Voglio ascoltare. Non è andato via il sole, solo lo stiamo guardando da un'altra angolazione. Non è andata via la sua luce, è solo una sua luce diversa, un suo momento, un suo sentimento. Un suo sentimento. È sempre lui, è sempre la sua luce. Lui ci conduce. A tempo, e col piedino triangolino. Provate un po' a guardare il vostro piedino. Si è fermato. Radio Italia Network, qui c'è Gigi D'Agostino, questo è il programmino. Oggi regaleremo anche 8 pacchetti vacanze per passare il Capodanno a Rimini, alla discoteca Altro Mondo, dove festeggeremo insieme, ci sarò io a suonare e passeremo lì la notte di Capodanno. Più tardi vi spiegherò un po' le regole, i modi, gli atteggiamenti per ricevere questi pacchettini in omaggio. Scrivete al programmino di Gigi D'Agostino, 333-6467-662. Comincia il volo. Un tuffo indietro, guardando avanti. L'amore è sempre. Indietro, guardando avanti. Un tuffo indietro, guardando avanti. Cose pesanti. Musica. sabato e domenica non c'è tempo per altro tempo. Si batte questo tempo. Sciogliete le gambe. Guardatemi negli occhi. What is right, what is wrong. E il piedino va da sé. Niente da dire. Piedino gomitino. Eh sì, perché quando il piedino si alza, contemporaneamente anche il gomito fa il suo movimento. Si porta avanti. Non si può spiegare. Può solo accadere. Non si può spiegare. Può solo accadere. A tempo. Nel tempo. A tempo. Nel tempo. Pubblicità. Ta-da-ta-ta. RIN, Radio Italia Network. Il programmino di Gigi D'Agostino. I'm not alone. I can leave the night alone by myself.

passeggiando, cantando. Guardando su, un po' più su. Quell'uomo pensieroso, un po' struggente, un po' incoerente. Camminava e poi cantava. Non si girava. Guardava su, guardava avanti. Radio no. Guardiamo tutti insieme un po' più in là. È bello tenersi per mano. Stringersi forte. E poi cantare. Vamos.

dicevo del dei pacchetti vacanze. Beh, vacanze un po' brevi, però che riguardano Capodanno, la notte di Capodanno. È un pacchetto che contiene l'ingresso alla disco, l'ingresso omaggio ovviamente alla discoteca Altro Mondo, dove noi festeggeremo, io suonerò lì tutta la notte, e il programmino in discoteca, quindi il pacchetto conterrà l'omaggio all'ingresso. Mi incespico sempre, però non riesco a spiegare bene le cose. Insomma, si entrerà gratis e ci sarà anche la notte, in omaggio la notte in albergo, potrete dormire grazie a questo omaggio. E tante altre cose che ci sono in questo pacchetto che io non so spiegare in questo momento. Insomma, dicevo che oggi regaleremo alle prime 8 persone che scrivono almeno 10 titoli dei brani che io suono in questa puntata del programmino, dovranno scrivere il titolo e l'artista in questione, quindi artista e titolo del brano, mandate un messaggino, almeno 10 brani, devono essere minimo 10, 333-6467-662, il numero del telefono DJ. Del telefono. Non so se mi sono spiegato bene, io non ho capito niente. Io ho provato a spiegare, perché non è facile, eh? È perché sono troppe cose e allora uno vuole spiegarle tutte, ma poi dopo non riesce, perché magari vorrebbe dire tutto in fretta, no? E pensa che, capito? Il coro di operai bergamaschi. Disco inciso in un cantiere edile nel Bergamasco. Provincia. Provincia. Fai quell'esperimento là, facciamo. Proviamo l'esperimento, acceleriamo un po' qua. Indietro, guardando avanti. E Gigi D'Agostino. Un tuffo indietro, guardando avanti. Devastato, due teste spaccate come zucche al sole, un ferito e un uomo castrato, il tutto in due ore. Due ore che ti ho lasciato solo, due ore. A volte penso come è strano che paragoniamo in strane situazioni le cose, le persone. Quando finisce un rapporto, una relazione tra un uomo e una donna, è strano come per molto tempo poi qualsiasi persona incontri, ci esci, ci parli un po', ci stai insieme, però in ogni istante ti capita di paragonare qualsiasi gesto di quella persona a quella con cui stavi prima. Quanto è strano paragonare. Ed è un po' non vivere bene quello che stai vivendo in quel momento, perché lo stai paragonando, lo stai calpestando. E ogni cosa nuova, ogni nuovo sentiero, anche solo una canzone diversa dalle solite che hai sempre sentito, non l'ascolti liberamente, la paragoni, la stai paragonando, non la stai ascoltando. È lo stesso quando cambi una macchina e non la vivi per quello che dovrebbe essere vissuta, ma la paragoni a tutto ciò che hai avuto e che hai respirato prima. È così un film, è così un nuovo piatto, ma soprattutto le persone vanno vissute per quello che sono, non vanno paragonate. A volte esprimo concetti un po' così, così come mi camminano nel cervello. Non so se qualcuno è riuscito a comprendere cosa ho provato a raccontare, ma così camminano le cose nel mio cervello. È sempre quello. Ci sentiamo dopo. programmino di Gigi D'Agostino. credo, ci sono persone a cui non credo. Non c'è colore nel loro arredo. Sono stanco, ora mi siedo. Sono stanco, ora mi siedo. Accelerazioni. Tutto appare impossibile. Allora ripeto il numero per poter vincere il pacchetto vacanze per passare il Capodanno con noi in discoteca a Rimini, discoteca Altro Mondo. 333-6467-662. Ripeto, 333-6467-662. Dovete scrivere almeno 10 brani che ho suonato nel programma di oggi, questa puntata del 20 dicembre. 10 brani, 10 titoli, titolo e artista, quindi non valgono se c'è scritto solo il titolo o solo l'artista. Oggi non riesco a parlare, mi succedono cose strane. Poco sane. Dicembre 2003, il programmino di Gigi D'Agostino. Questa notte a Latina, discoteca 24.000 baci. navigate pure in internet, cercate tutto ciò che volete, ma attenti perché ci sono molte cose false, molte notizie false, musica falsa, molte cose che non hanno niente a che vedere con l'arte. Anzi, loro l'arte la mettono da parte. Attenti alle notizie false, ci sono organizzatori, pseudo organizzatori che organizzano feste pubblicizzando artisti che poi non ci saranno perché gli artisti non sono mai stati avvisati, contattati, sono cose che succedono in giro. Lo dico perché a volte mi scrivono delle mail, qualcuno si arrabbia, mi insulta anche, ma sono cose che non dipendono da me, purtroppo succedono. Anzi, proprio in questo periodo stanno pubblicizzando una data nella zona di Napoli dove assolutamente non sarà presente nessuno degli artisti che stanno pubblicizzando. Queste purtroppo sono cose che continuano ad accadere. Aprite gli occhi. Mettiamoci un po' a sedere, guardiamoci un po' negli occhi, stiamo un po' in silenzio. E vogliamo via, piano piano, ci perdiamo e così ci ritroviamo. No. There's no feeling in this world like the joy you bring to me. All the people drinking, thinking. Di Gigi D'Agostino è anche questo. Il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Canto de na. Canto de na. Condera otto, do condera otto, do la condera. Se la consea otto, canto do pescatore sul programmino. 20 dicembre 2003, data molto particolare, il compleanno di due grandi amici del programmino, Ale Miasi e Tony, grandi amici del programmino e della famiglia, di questa grande famiglia della Gigi's D'Agostino's Family. Un abbraccio forte va a loro che seguono e alimentano il programmino. È arrivato anche un bel messaggio per loro. Ad Ale Miasi e Tony un felice compleanno vorrei augurare e a loro Fly vorrei dedicare, Francesca. In volo con voi. Grandi abbracci al popolo del programmino, ai nostri grandi amici che hanno compiuto non si sa quanti anni, non lo vogliamo dire. Ancora un grande abbraccio a Tony e alle Miasi, ci vediamo questa sera al 24.000 baci, anche loro ci saranno, tutto il mondo sarà lì questa notte. È il programmino di Gigi D'Agostino in tour. Vi ricordo il numero per partecipare al concorsino del programmino: 333-6467-662. Se mi scrivete almeno 10 titoli dei brani che ho suonato quest'oggi, titolo e autore, potrete vincere un pacchetto vacanze per venire a Capodanno ad ascoltare la musica all'altro mondo. Suonerò io tutta la notte lì a Capodanno e in questo pacchetto avrete l'omaggio per entrare nella discoteca e per dormire nell'hotel la notte e altre cose in omaggio che io ora non mi ricordo, non sono bravissimo a spiegare queste cose. Però partecipate, giocate. Preparate il vostro cuscino, mettetelo a posto nel vostro angolino, quello preferito, appoggiate il vostro viso su quel cuscino, in quell'angolino, e poi... Su, proprio lassù, camminando nel cielo, ogni sabato. Ogni sabato, ogni domenica, 14, 16, ascoltami e credici. the light. Walking on the sky, I see the moon, I see the light. You better watch your step. You must be on your guard and take it slow. And promise me, be careful what you do. I know you're strong. I know you may be on your own without my help. She's before you. Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Il rumore del cammino, del programmino, del cammino, il rumore del programmino, del cammino. Grazie. grazie, grazie a tutte quelle persone che si sono ricordate del mio compleanno, mi hanno mandato molti messaggi, amici, parenti, conoscenti, gente che non mi conosce, gente che non sa ancora che mi ha scritto. E grazie lo stesso. Grazie di cuore. Tanti messaggi, tante mail, tanta gente che scrive, tanta gente che ama, che vuole condividere, vuole parlare, vuole pensare, vuole cantare, ballare. Grazie, grazie di cuore per tutto. Ricordo ancora il numero della messaggeria, se volete vincere la notte in discoteca all'altro mondo a Capodanno e anche il pernottamento in albergo e altri omaggi che non ricordo che ci sono in quel pacchettino là. 333-6467-662 oppure gigi@supergigi.com. 333-6467-662. Scrivete qui. È il fantastico cammino del programmino. È il rumore del silenzio. È sempre più forte. Quanto mi piace questo rumore. Grazie ragazzi, anche oggi siete stati qui, siete stati con me, abbiamo passeggiato un po' dappertutto, ascoltato, pensato, scritto nelle nostre menti e nei nostri cuori. Grazie. Grazie. Sabato e domenica insieme a voi, finché ci sarete voi ci sarò anch'io. Sarò qui. Del volo. appuntamento con la replica domani pomeriggio qui su RIN, Radio Italia Network. Grazie di cuore, ragazzi. Prima non ho specificato il nome preciso dei due ragazzi a cui abbiamo fatto gli auguri. Uno era Tony Noiso, detto Tony, ma è una persona talmente unica che non ci si sbaglia. Auguri Tony, auguri alle Miasi. Che dire, popolo, ci vediamo questa notte latina. Arrivederci.